Radio 24 presenta Destini incrociati. Il pubblico che sentite in sottofondo si trova a Londra. Per la precisione, Destini Incrociati oggi si immerge nell'atmosfera del campo centrale dell'All England Club, sede da oltre 100 anni dei The Championships, meglio noti semplicemente come Wimbledon. Siamo alla Mecca del tennis. È il 1981. È il 4 luglio, per la precisione, il giorno dell'indipendenza americana. E proprio un americano, Mr. John McEnroe, è a un passo dal trionfo. Davanti a lui, il suo più grande rivale, Bjorn Borg, sta per soccombere, sta per abbandonare il trono di Wimbledon, un torneo che ha vinto 5 volte di seguito. Quest'ultimo game, forse, metterà fine al suo regno sull'erba inglese. Forse, metterà la parola fine su qualcosa di molto più grande. Una carriera, una leggenda, un sogno. Andiamo subito alla scoperta di una delle più grandi rivalità della storia del tennis. Bjorn Borg era soprannominato l'orso, il che la dice lunga su molte cose. Sul suo aspetto fisico, Borg sembrava uscito da una di quelle impenetrabili foreste che ricoprono le lande della sua terra, la Svezia. Sul suo carattere, freddo, burbero, indecifrabile. Sulla sua forza. Non è sbagliato affermare che il suo poderoso approccio fisico allo sport abbia determinato la nascita del tennis moderno. Dal suo tellurico gioco d'attacco da fondo sono nati i vari Lendl, Wilander, Agassi, Courier. Dalle sue straordinarie doti difensive, maratoneti come Leighton Hewitt, fino al grande Rafa Nadal. Nel mio tennis, la preparazione fisica ha sempre costituito un elemento centrale. In questo sport, mente e fisico sono, secondo me, le componenti chiave di un campione. Molto più degli aspetti tecnici. Bjorn Borg nasce vicino a Stoccolma, il 6 giugno 1956. La vita sportiva del futuro campione svedese è all'insegna della precocità. A soli 7 anni vince un torneo di tennis tavolo e il padre, come premio, gli regala una racchetta da tennis. Bjorn ne è immediatamente rapito, è affascinato e prestissimo dimostra come abbia tutte le carte in regola per diventare un fenomeno con la racchetta in mano. Diciamo che i gesti tecnici del tennis mi sono sempre risultati piuttosto naturali, da subito. La passione mi ha poi permesso di costruirmi fisicamente e tecnicamente. Allenato dal mitico Lennart Bergelin, Borg arriva a soli 15 anni nella squadra svedese di Coppa Davis e nel 1973 esordisce nel circuito pro. Fa subito quarto turno a Parigi e quarti di finale a Wimbledon, torneo che aveva vinto l'anno prima nell'edizione Juniores. Il suo talento è pronto per esplodere e lo farà nel 1974. In quell'anno la Svezia sbanca in Europa anche in campo musicale. È l'anno degli ABBA e del loro primo album inciso con questo nome. Si chiama Waterloo. Nella primavera del 1974 lo svedese vince gli internazionali d'Italia a Roma, sconfiggendo Ilin Stase. Solo 2 settimane dopo si ripete al Roland Garros, diventando il più giovane giocatore ad imporsi a Parigi. Inizia il dominio di Borg. È ancora un tennis diverso. Le ultime pagine di una poesia fatta di racchette di legno e pantaloncini attillati, di completi bianchi, tradizioni e rituali quasi magici. Una religione che ha in quegli anni, oltre a Borg, altri grandi sacerdoti. Jimmy Connors, Vitas Gerulaitis, Ilin Stase, il nostro Adriano Panatta. È un fatto eccezionale che McEnroe, Connors ed io abbiamo giocato più o meno nello stesso periodo. Chissà come sarebbe stato giocare in periodi diversi. Secondo me, noi tre in particolare, ma anche altri giocatori di quel periodo, abbiamo spinto il tennis su livelli diversi, impensabili prima, anche sul piano della notorietà. Se il tennis è cambiato, è principalmente merito nostro. Nel 1975 arriva per Borg il bis al Roland Garros. L'anno dopo, il primo successo a Wimbledon, mentre lo scettro parigino questa volta gli sfugge. Sfiora il primo posto della classifica ATP, dove rimane una sola settimana. Vince in totale 11 tornei in 2 anni. Nel 1977 inizia il suo dominio incontrastato. Rivince Wimbledon e vince praticamente tutto. Gli sfuggono solo gli US Open, cruccio di tutta la sua carriera, e il Roland Garros, cui non partecipa per polemica verso la federazione. Dal 1978 c'entra il doppio Parigi-Wimbledon per 3 anni di fila, unico nella storia del tennis. Rimane complessivamente per 62 settimane al primo posto della classifica mondiale, alternandosi con Jimmy Connors, di cui interrompe il primato al vertice del ranking, 160 settimane, record che batterà solo un signore svizzero che si chiama Roger Federer. Vince anche 2 Master. La sua carriera è all'apice. Quell'uomo biondo, controverso, con un look bizzarro che sembra costruito apposta per rappresentare gli anni 70 e un top spin che uccide, sembra inarrestabile. È bello, giovane, ricco e affascinante. E a soli 24 anni sembra avviato ad una lunghissima carriera, proprio come i giovanissimi Queen, che nel 1978, non a caso, cantano Don't Stop Me Now, non fermatemi proprio ora. Eppure il destino metterà sulla strada dell'orso svedese un genio irriverente, deciso a bloccarlo. Nel 1959 Borg ha solo 3 anni. Va bene la precocità, ma ancora i cromosomi del campione non si intuiscono. In quell'anno, in una base militare dell'allora Germania Ovest a Wiesbaden, un ufficiale della Air Force americana e una giovane casalinga, sua moglie, festeggiano la nascita del loro primogenito. Si chiama John Patrick McEnroe. John Patrick McEnroe crescerà nel quartiere di Queens, New York. E proprio come Borg, il suo esordio nel tennis che conta è precoce e fulmineo. Nel 1977, a Wimbledon, quando è ancora uno sconosciuto, parte dalle qualificazioni e sorprende tutti giungendo fino alle semifinali, dove cede a Jimmy Connors in 4 set. Il torneo alla fine se lo aggiudica Borg, ma McEnroe lancia subito un segnale forte, come ricorda lui stesso. Wimbledon 77 è stata una svolta per la mia carriera. Mi ero appena diplomato in una scuola superiore di Manhattan, con ottimi risultati. Ero uno studente impeccabile. Arrivando secondo nel torneo nazionale di tennis delle scuole superiori, mi guadagnai la possibilità di partecipare al tabellone delle qualificazioni di Wimbledon. C'erano tantissimi giocatori per un posto nel tabellone principale. 2 settimane dopo ero in campo sul centrale contro Connors. Da lì ho capito che in effetti sarei potuto diventare un giocatore di tennis. McEnroe diventa professionista nel 1978 e si aggiudica subito 5 tornei del circuito. Riesce a strappare un posto al Master di fine anno, entrando nei top 10, e a vincerlo. Dal 1979 non si può più parlare semplicemente di John McEnroe o di Bjorn Borg, ma di Borg e McEnroe insieme. I due si affrontano 6 volte durante l'anno, 3 finali, 3 semifinali. Mai in un torneo dello Slam, però. 2 volte vince l'americano, 4 lo svedese, saldamente al primo posto nel ranking. Mentre Borg si aggiudica Roland Garros e Wimbledon, al giovanissimo McEnroe vanno gli US Open. È solo l'antipasto di quel che succederà nel 1980. Succedono tante cose, in verità, nel 1980. Per l'Italia, ad esempio, è l'anno della strage di Bologna, della tragedia di Ustica, del terremoto di Irpinia. Gli Stati Uniti svoltano a destra, con l'ex attore Reagan che diventa presidente, mentre il suo predecessore Jimmy Carter sceglie di boicottare le Olimpiadi di Mosca. Si apre il decennio delle contraddizioni, che va dal rilancio della Guerra Fredda fino al crollo del Muro di Berlino, il decennio dell'AIDS, del pop elettronico, degli effetti speciali, dello yappismo, di MTV, di Chernobyl. Per gli appassionati di tennis, il decennio si apre all'insegna di John McEnroe e di Bjorn Borg, che si incontrano per la prima volta nell'anno in finale a Wimbledon. È il 5 luglio del 1980. Sull'erba inglese va in scena il primo leggendario match fra i due campioni. Molti sostengono che quello fra me e Bjorn del 1980 è stato il match più bello della storia del tennis. Lo scorso anno, commentando l'epica finale di Wimbledon tra Roger Federer e Rafa Nadal, avevo affermato che quello era stato il miglior match di tutti i tempi. Mi hanno fermato in tanti per strada per dirmi: «Ehi, il match più bello di sempre è quello tra te e Borg del 1980». In effetti quello fu un match incredibile, indimenticabile, uno dei migliori della mia carriera. Ciò che è passato alla storia di quel match è indubbiamente il tie break del quarto set, in cui Borg, in vantaggio di due set, spreca 5 match point, perde 18 a 16 e si fa trascinare al quinto, dove riesce ad imporsi per 8 a 6. La rivincita arriva agli US Open, torneo che Borg non è ancora riuscito a portare a casa. E nemmeno stavolta vi riesce. McEnroe in finale vince una battaglia in 5 set, la seconda. A Stoccolma e al Master, quello stesso anno, vince Borg. Ma si capisce che il suo regno è in pericolo. Difatti, l'anno successivo, il 1981, dopo un antipasto fugace nella finale del torneo di Milano, i due si ritrovano a Wimbledon. Siamo tornati all'evento iniziale di Destini Incrociati, la finale del 1981. Borg contro McEnroe. C'è qualcosa di speciale nell'aria dell'All England Club quel pomeriggio. Destini Incrociati. Oggi Destini Incrociati è all'All England Club di Londra, sul campo centrale di Wimbledon. È il 4 luglio 1981. Si stanno affrontando John McEnroe e Bjorn Borg. Borg ha vinto 5 Wimbledon consecutivi, un record incredibile, che solo Roger Federer, più di 20 anni dopo, saprà eguagliare. Un record ancora più sbalorditivo se si pensa che lo svedese è un attaccante da fondo, tutt'altro che adatto a dominare sulle superfici veloci. Ma ha la testa del campione, Bjorn, e adatta magnificamente i suoi colpi all'erba, divenendone l'imperatore. Davanti a lui, un giocatore è un uomo che più diverso non si potrebbe. Eravamo molto diversi, è vero, ma il nostro modo di giocare in qualche modo si completava a vicenda. Bjorn era una leggenda, davvero. È un campione di cui ho avuto sempre il massimo rispetto. In quell'edizione di Wimbledon, il Super Brett, il Super Moccioso, quello era il soprannome di John McEnroe, dà il meglio e il peggio di sé. Insieme a colpi incredibili e sbalorditivi, arrivano risse verbali continue con gli arbitri. Un atteggiamento poco gradito agli impettiti membri del club londinese. Durante il primo turno grida un arbitro: «Sei la feccia del mondo!», guadagnandosi 1.500 sterline di multa. Durante il match successivo, forse la frase più famosa gridata al malcapitato arbitro Fred Hoyles: «You cannot be serious!» «Non puoi essere serio!» che diventerà il titolo della sua autobiografia. The Genius, questo un altro dei suoi soprannomi, è un personaggio anche fuori dal campo. Appassionato di musica rock e pop, suona la chitarra, tanto che, appesa la racchetta al chiodo, tenterà senza successo la carriera musicale. Stringe amicizie con personaggi della musica e del jet set, come Frank Sinatra, Joe Cocker, Mick Jagger. Sposa Tatum O'Neill, figlia di Ryan O'Neill, attrice giovanissima e vincitrice di Oscar con il film Paper Moon nel 1974, per separarsene poi con grandi sofferenze nel 1992 e sposare l'ex cantante degli Scandal, Patti Smith. In questo caso, quindi, McEnroe è lontanissimo dal glaciale Bjorn Borg. Anche i colleghi, naturalmente, ricordano emozionati quella grande rivalità. Come l'australiano Pat Cash, vincitore di Wimbledon nel 1987. Penso che la rivalità tra John McEnroe e Borg sia stata la più grande di sempre per il nostro sport. Era come vedere lottare un angelo e un demone. Erano completamente opposti. Insieme facevamo una specie di yin e yang. Eravamo opposti. Il modo in cui giocavamo era opposto, il modo in cui ci comportavamo in campo, in cui ci vestivamo, tutto. Ma c'era qualcosa di magico che ci teneva anche uniti. La finale del 1981 è meno bella di quella dell'anno precedente, ma più importante per le conseguenze che porterà con sé. McEnroe ha capito perfettamente ormai come affrontare lo svedese. Il match dell'anno prima, inoltre, ha lasciato in Borg una sensazione nuova, sconosciuta a Wimbledon. La paura di perdere. Così The Genius dilaga e l'orso svedese prova a contenere i danni. anche McEnroe. Il primo set, tuttavia, se lo aggiudica Borg. Con grande intelligenza, lo svedese gioca più aggressivo del solito, sorprende l'americano e si porta a casa il parziale 6-4. Dal secondo set inizia lo show di McEnroe. Rovesci assassini in back, serve and volley, smorzate. Il campione americano continua a cambiare ritmo, non dà riferimenti a Borg e si invola verso la vittoria. La resistenza di Borg è più che tenace. Secondo e terzo set finiscono al tie break, ma se li aggiudica entrambi McEnroe. Nel quarto, i due tengono i rispettivi servizi fino al 5-4 per McEnroe. Bjorn Borg si appresta a servire. Borg arriva al 30-0, poi sbaglia tre colpi facili. La sua proverbiale freddezza ha qualche crepa. Sul 30-40, John McEnroe ha il primo punto del torneo. McEnroe sbaglia. Borg è di nuovo in partita. Per poco però. Nello scambio successivo, un pallonetto corto di Borg viene facilmente smashato dall'americano. Arriva il secondo match point. L'urlo che avete sentito è quello di John McEnroe. Ha vinto. Ha detronizzato il re. Il dominio di Borg sull'erba inglese è terminato. In quel preciso momento ho capito che la mia carriera poteva davvero diventare grande. Non tanto per la vittoria o perché questa mi avesse portato fiducia. Io ero già fiducioso. Ma perché avevo sconfitto a Wimbledon Bjorn Borg, un mito. Quello che John McEnroe ancora non sa è che non ha solo tolto a Borg il titolo di Wimbledon. Gli ha strappato una cosa più importante, la fiducia in se stesso, la certezza, quella quadratura psicologica che in uno sport individuale come il tennis è a dir poco fondamentale. Destini incrociati. Oggi Destini Incrociati racconta la grande rivalità tra Bjorn Borg e John McEnroe, esplosa nel triennio 1979-1981. Due dei più grandi tennisti di sempre si danno battaglia a colpi di record e di sfide memorabili. L'erba di Wimbledon rimane però il giardino di casa Borg fino al 1981. In quell'anno, dopo 5 successi consecutivi, John McEnroe frantuma le certezze dell'orso svedese in una partita tesissima, anche se non bella come la finale dell'anno precedente. Il destino ha messo sulla strada di Borg questo americano mezzo matto e irriverente, che a soli 25 anni frantuma la sua carriera. Penso che la gente si sia divertita guardando le nostre sfide in quegli anni. Per me è stato difficile, però, accettare quella sconfitta. Ho provato a digerirla, poi però è arrivata la seconda delusione, quella degli US Open. New York, settembre 1981. Va in scena il quarto e ultimo slam della stagione. È il torneo che Bjorn Borg ha sempre inseguito e mai raggiunto. Nonostante la ferita profonda della sconfitta a Wimbledon, lo svedese procede a fatica nel tabellone, si trascina fino alla finale. Ad aspettarlo, ancora, John McEnroe. Anche quella finale fu assolutamente fantastica, ma qualcosa in Bjorn era già cambiato. Aveva perso la sua freddezza, la sua lucidità. Era bastata una sconfitta bruciante con il suo rivale per trasformare la sua mentalità. Quella del 1981 è la terza finale US Open per Borg. Ha sempre perso. Spera di ribaltare il pronostico che per la prima volta nella sua vita gli è totalmente sfavorevole. Parte bene e come a Wimbledon vince il primo set 6-4, come racconta il commento originale del grande Rino Tommasi. Bjorn Borg si aggiudica il primo set. Poi però stavolta crolla completamente. Così se ne va il secondo parziale. Ed è 6-2 per McEnroe. È la volta del terzo. Gran recupero di McEnroe. Nel quarto arriva presto il break e poco dopo il match point. È finito. Finisce fuori il passaggio di Borg. vince per la terza volta consecutiva all'Open degli Stati Uniti, si aggiudica il quarto set con il punteggio di 6-3. McEnroe vince gli US Open e consolida il proprio primato in cima al ranking mondiale. Borg sempre più è il numero 2, inaccettabile per lui. Prima della premiazione deve uscire dallo stadio, fare una passeggiata, deve respirare. Qualcosa nella sua mente si è frantumato. Dopo quel match arriva il ritiro, già meditato dopo la sconfitta di Wimbledon. Bjorn mi è mancato subito. È il più grande giocatore con cui abbia mai giocato e sarebbe stato bello che la nostra rivalità potesse continuare. Era l'unico giocatore in grado di farmi apprezzare fino in fondo la bellezza di questo sport. Mi dimenticavo di tutto il resto, degli arbitri, del pubblico. C'eravamo solo io e lui. La finale con lui a Wimbledon nell'81 è uno dei punti più alti della mia carriera. L'incrocio dei destini di Borg e McEnroe trasforma la vita e la carriera di entrambi. Il primo si ritira, perde gli stimoli. Inizia una controversa vita lontano dai campi da gioco, tra investimenti sbagliati, debiti e amori impossibili, tra cui quello con Loredana Bertè. Sai, noi donne, quando siamo innamorate, ci immaginiamo l'uomo come un cavaliere antico su questo cavallo bianco, con questa corazza splendente su questo cavallo che corre per venirci a prendere, e poi scopri in fin dei conti che dentro l'armatura però non c'è niente, e umanamente mi ha delusa, sì. La fretta del cuore. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Oh no. Oh, oh, oh. Chiuso il matrimonio con la Bertè, Borg tenta la via del ritorno all'inizio dei 90, spinto proprio dal bisogno di denaro, ma non vince nemmeno una partita. Troppo diverso il tennis di Sampras e Agassi da quello che lo vedeva dominare. The Genius, invece, fino al 1992, resta al vertice del tennis mondiale. Vince 77 tornei ATP, tra singolo e doppio, e 7 tornei dello Slam. La sua vita dopo il tennis è eccentrica, varia, felice, come quella da atleta sul campo da gioco. Una galleria d'arte, concerti con la sua rock band, la solida carriera da commentatore. Mi piace fare il commentatore dei match in TV. Ti dà un bel contatto con la gente e ti fa stare a contatto con questo sport. Oggi rivedo molto della rivalità tra me e Borg in quella tra Rafa Nadal e Roger Federer. Questi ragazzi mi fanno sentire giovane. Lo scorso anno, a 50 anni suonati, i due si sono incontrati per un match d'esibizione valido per il Senior Tour of Champions. Racchette di nuova generazione, ottima forma fisica, palazzetto gremito. Borg e McEnroe hanno dato il solito grande spettacolo. A partire dagli spogliatoi, prima del loro ingresso in campo. Finalmente sei pronto. Stavo invecchiando qui, aspettandoti. Più vecchio ancora di come sei? Scusami, ma stavo studiando le tattiche per batterti. Il viaggio di oggi di Destini Incrociati, lungo una delle rivalità più brevi ma più intense della storia dello sport, ci ha raccontato un'altra storia di vite che si intrecciano, si scontrano e cambiano direzione. Ci ha raccontato di come nello sport i grandi campioni diventano tali solo se ci sono avversari di spessore, in grado di metterne alla prova la grandezza. Ci ha raccontato di uomini che, pur in maniera diversa, sono nati per il successo, per alzare i trofei, che non accettano di essere secondi a nessuno. Come dice Paul Stanley dei Kiss, vivono per vincere. Live to win till you die. Yeah! Live! Yeah! Win! Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24. A Destini Incrociati, tra poco, la fine della rivalità tra Bjorn Borg e John McEnroe.